4 ergastoli in Italia, una lunga richiesta di estradizione sempre negate dal Brasile, l'ultimo pronunciamento nella notte italiana, e nella notte italiana è stato liberato, basta leggere le agenzie, ci sono già le dichiarazioni di rammarico sia del ministro degli esteri Frattini, del presidente del Consiglio Berlusconi. Il dato di fatto, vedrete, e fa molta rabbia certo vederla, le foto esultanti, vecchie, non quelle attuali, di Cesare Battisti, pugno alzato, pugno chiuso alzato, sui giornali. Cesare Battisti è libero, non ha fatto dichiarazioni uscendo dal carcere, il suo avvocato ha detto rimarrà in Brasile, probabilmente a vivere a Rio de Janeiro, farà lo scrittore e non ha intenzione di fare politica. 24 mattino. Alle 8:33 minuti, allora ci concentriamo sulla giustizia civile. Oggi nel nostro sondaggio sul perché della lentezza cronica della giustizia civile in Italia, con una proposta che è partita da due economisti e che sta facendo e ha fatto discutere. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Allora, la proposta è stata concretizzata in un editoriale sul Corriere della Sera domenica scorsa da Francesco Giavazzi e Alberto Alesina, due economisti. Il professor Alberto Alesina insegna politica economica all'Università di Harvard e è anche visiting professor alla Bocconi. E lo saluto, professor Alesina, buongiorno e benvenuto a Radio 24. Buongiorno a lei. Allora, insieme al professor Giavazzi, lei ha scritto un articolo che ha fatto molto discutere. Il Consiglio Nazionale Forense ha risposto sul Corriere della Sera il giorno dopo. Il Consiglio Nazionale Forense, ricordiamo, è l'organismo unitario di rappresentanza dell'avvocatura italiana, e ne saluto il vicepresidente, l'avvocato Ubaldo Perfetti. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Allora, io certo, sono varie le motivazioni della cronica lentezza della giustizia civile in Italia, però professor Alesina, voi, lei e professor Giavazzi, e noi ci siamo concentrati su questo nel nostro sondaggio, traducendola così, mettiamo il numero chiuso agli avvocati nella facoltà di giurisprudenza e liberalizziamo le tariffe e vedrete che la giustizia civile si accelererà. Questo è il concetto cardine che voi avete espresso. Perché tanti avvocati uguale giustizia più lenta, professore? Beh, credo che le cose, come diciamo nell'articolo, tanti avvocati è uno problema, e l'altro è come la remunerazione degli avvocati, che è non a forfè e quindi basata sul numero di ore, ed è un numero, e del prezzo è anche fissato non da regole di mercato, quindi il prezzo viene tenuto a un certo livello e il numero di avvocati così alto fa sì che c'è una tendenza a dover trovare lavoro a tutti questi avvocati, non solo, ma gli avvocati più giovani anche sono pagati molto poco, appunto perché c'è un eccesso di offerta di avvocati, quindi limitare il numero con il numero chiuso al giurisprudenza, come c'è a medicina e altre facoltà, e liberalizzare le tariffe e trasformare le tariffe a un sistema forfè non a ore è uno dei modi per cui si potrebbe velocizzare la giustizia. In maniera, diciamo, molto, molto pratica, se uno viene pagato a ore tende a far sì che la causa duri più a lungo possibile, no? Io ne ho parlato con un avvocato mio amico, di cui non fa ovviamente il nome, e lui mi ha detto, beh, ma insomma, finché la pende la rende, no? Usando i vecchi proverbi, finché un processo rimane lì, rende, no? Questo è un concetto molto pragmatico. La stessa questione è quella dello straordinario numero di avvocati, cioè lei ne fate una questione, come dire, questa armata di avvocati deve pur sempre trovare del lavoro, insomma, per poi vivere, e quindi legittimamente, e questo ingolfa i processi. Per questo siamo un popolo litigioso, perché c'è sempre un avvocato pronto a spingerci a questo? Ma no, forse siamo un popolo particolarmente litigioso. Pensavo a questo punto fatto nella replica, c'è un dato molto interessante, che in Francia, di tutte le statistiche, dimostra che la Francia è il paese in cui le persone si fidano meno degli altri di qualunque altro paese avanzato. Ci sono anche dei libri che discutono su perché e per come i francesi si fidino così poco l'uno dell'altro, quindi dato che si parlava del paragone con la Francia, non so se l'Italia sia un paese particolarmente litigioso rispetto ad altri paesi, ma credo che il livello di litigiosità di un paese non sia un fattore, diciamo, esogeno e costante. La litigiosità tra due persone può anche è un fattore endogeno che si può anche attizzare con un certo sistema legale, ovvero non penso che gli avvocati solo aspettino le cause che arrivino nei loro uffici, ma ovviamente la loro, insomma, il loro interesse giustamente è quello di procacciarsene. Non c'è niente di male, ma come qualunque altra professione lo farebbe. Allora, diciamo, a queste accuse specifiche, certo, poi ripeto, le lentezze della giustizia si possono vedere sotto tanti altri aspetti, però su questo ci siamo concentrati, ci vogliamo concentrare. Vorrei, avvocato Perfetti, lei che è il vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense, le accuse sono abbastanza chiare e sono anche esplicite nei confronti, per quel che riguarda voi, insomma, per quel che riguarda l'avvocatura. Ci dica che cosa non va nell'impostazione di Alesina e Giavazzi. Intanto, dato che parliamo di numeri, e questi numeri occorre sciorinarli, farli. Allora, gli iscritti agli albi ad oggi sono 216.728. Tenga presente però che gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza sono 156.934. Quindi c'è una differenza di circa 60.000 avvocati. Consideri che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria ed avviene d'ufficio quando il volume d'affari di un avvocato supera i 15.100 euro ed il reddito netto 10.100 euro. Che cosa vuol dire questo? Se lei sottrae a 216.728 156.934, avrà che circa 60.000 avvocati, per la precisione 59.794, sono marginali, perché non producono un reddito netto superiore a 10.100 euro. Praticamente si tratta di avvocati che non esercitano in modo stabile e continuativo, e la maggior parte di essi non esercitano affatto, ma conservano l'iscrizione all'albo anche per motivi di prestigio. Quindi non incidono sulle cause, contenzioso. Diciamo. Tenga presente, comparando questo numero con altri paesi con i quali possiamo essere comparabili, non certamente con la Francia che ha un assetto della giurisdizione parzialmente diverso dal nostro, qui preciso che mi servo delle statistiche del CCBE, che è l'organo che raccoglie consigli nazionali forensi di tutta Europa. Allora, in Germania gli avvocati sono 153.251, in Spagna, che è un paese che ha una popolazione quasi dimezzata rispetto alla nostra, sono 161.988, di cui 48.487 nella sola Madrid. Ad oggi, all'11/2/2010, gli avvocati sono saliti a 168.400. Ma lei ci sta sciorinando cifre giuste, però ecco, no, quindi questo tanto dimostra che non siete così tanti come seconda considerazione. Dire che il numero si collega al contenzioso sottende l'insinuazione che, appunto, per far lavorare tutti questi avvocati occorre creare anche contenziosi, uso una parola un po' pesante, artificiosi. Tenga presente che noi siamo molto avanzati da questo punto di vista, abbiamo addirittura sopravanzato le sezioni unite della Corte di Cassazione di oltre 10 anni, abbiamo un codice deontologico molto rigoroso. Le leggo l'articolo 6, doveri di lealtà e correttezza: l'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con malafede o colpa grave. Potrei citarle anche l'articolo 36. Questo sì, però, avvocato, non è secondo me, quando il professor Alesina dice che legittimamente uno si vuole procacciare un lavoro, cioè non la veda come una cosa negativa. Se è legittimo vuol dire che c'è una domanda fisiologica di giustizia. Il problema, la terza considerazione che volevo fare è questa: se lei restringe il numero degli avvocati, incide sull'offerta, dovrebbe incidere sulla domanda, e si dovrebbe domandare perché c'è una domanda di giustizia così alta. Probabilmente dipende da altri fattori sui quali l'avvocatura non può assolutamente incidere. Sarebbe molto lungo discutere del perché di questo contenzioso molto elevato. Secondo problema delle tariffe. Si dice che il governo dovrebbe avere il coraggio di liberalizzarle. Questo ho letto nell'articolo del Corriere della Sera domenica. Guardi che le tariffe sono già state liberalizzate, perché la riforma cosiddetta Bersani e la legge 248 del 2006 ha liberalizzato le tariffe, ha abolito i minimi tariffari ed ha legittimato ciò che è vietato in tutta Europa ed è vietato perché viene definita dal vostro Consiglio Nazionale, dal vostro Presidente, una liberalizzazione infausta questa fatta? Le spiego perché. Perché l'abolizione dei minimi tariffari ha danneggiato i giovani. E le immagino un avvocato onusto di gloria che abbia 30 o 40 anni di professione alle spalle, un leader nel suo settore, può resistere alle proposte di patti di remunerazione, diciamo anche sotto i minimi tariffari non adeguati. Un giovane no, un giovane no. Se vuole lavorare deve accettare i patti di remunerazione con sconto sul minimo, quello che sta accadendo adesso con chi ha il potere economico di poter imporre queste aspetti. Ma infatti su questo, professore Alesina, vorrei capire, voi vi concentrate sul fatto che poi è un sistema talmente sbagliato secondo la vostra analisi che poi appunto molti giovani si iscrivono a giurisprudenza magari con una possibilità e una prospettiva di sbocco minore e con la possibilità di guadagni nettamente minori, adesso non dico fare la fame, ma all'inizio la difficoltà è proprio questa, cioè è un sistema che ha delle falle tali per cui poi non c'è neanche quel ricambio professionale o generazionale che ci dovrebbe essere in tutte le professioni, o no? O mi sbaglio, professor Alesina? Sì, ma se mi posso permettere un commento, io credo che la cosa fondamentale non sia tanto e solo il livello delle tariffe, ma il fatto che le tariffe siano a ore e non a forfè, e quindi questo, sì, che questo è un punto. È un sistema, cioè l'avvocato parlava di accuse, usava dei termini molto, molto forti, ma io come economista non accuso nessuno, io dico solo che se io fossi pagato a ore cercherei di non a risultati, cercherei di lavorare, di mettere più ore possibile, è una questione di accuse, non è assolutamente accusato nessun avvocato di creare dei casi artificiosi, ma nell'ambito di casi che non sono per nulla artificiosi, ma sono perfettamente giustificati, ci sono modi per risolvere in modo più breve, risolvere in modo più lungo, così come un medico, per fare un altro esempio, se un sistema di assistenza sanitaria tale per cui si remunerano procedure più complicate, il medico ha intenzione segue procedure più complicate, mentre se invece il sistema di remunerazione tale per cui è un altro, il medico segue delle altre strategie, dunque è una questione di incentivo, non di illegalità, quindi il fatto che ci sia una norma che dice che norme deontologiche va benissimo, ma non è quello di cui si parlava, stiamo parlando di reati, avvocati che commettono reati, ma di avvocati che usano in modo perfettamente legittimo. Esatto, il codice, cioè che agiscono nella legalità, ma utilizzano il sistema. Quindi rispondere che gli avvocati, che l'avvocato medio non è una persona che viola la legge, è ovvio che non lo è, nessuno l'ha mai detto, sono un sistema di incentivi nell'ambito della perfetta legalità. Per quanto riguarda tornando alla sua domanda, sì, credo che il numero di studenti che si iscrivono a legge, soprattutto al sud, è dovuto al fatto forse che non solo cerco di entrare nell'avvocatura, ma legge offre anche altre prospettive di lavoro nel settore pubblico, eccetera, che sono un altro incentivo. Comunque certo, più è un fattore economico assolutamente di base, che più è alta l'offerta è più basso il prezzo dei servizi, quindi se il prezzo viene liberalizzato si abbassa e quindi c'è questa ingolfatura di giovani avvocati che non trovano lavoro e fanno la fame. Intanto io voglio andare alle informazioni sul traffico. Detto che su Radio24.it i nostri ascoltatori votano questa proposta, cioè come noi l'abbiamo tradotta così, meno avvocati e numero chiuso a giurisprudenza, sareste d'accordo? Il 71% vota sì, ma comunque c'è anche qualche ascoltatore con noi che ci ha chiamato, da cui voglio ripartire subito dopo le informazioni sul traffico. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora 800 24 00 24, Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Intanto le faccio i miei complimenti per la sua capacità di rendere sempre molto interessante le cose che propone. Grazie, dica. È sacrosanto ciò che dice il visiting professor della Bocconi. Io sono un chirurgo vascolare, vivo tutti i giorni per fortuna non mie, ma comunque situazioni dove c'è una spinta verso cause che non porteranno sicuramente da nessuna parte, perché c'è uno stuolo di avvocati che spingono verso un tentativo di remunerazione di sedicenti azioni di mala sanità, e tutto questo viene spinto da un numero di avvocati che è assolutamente inadeguato. E lei dice il fatto che siano troppi li spinge a cercare della legittimità del sistema, questo lo ribadiamo ancora una volta. C'è un'ipocrisia in Italia, dottor Milan, che è ridicola, è assolutamente ipocrita tutto quello che viene detto dalla controparte degli avvocati dell'ordine. Adesso insomma è la posizione del Consiglio Nazionale Forense, insomma lei comunque sostiene assolutamente la tesi del professor Alesina. Grazie Paolo, voglio andare a Napoli da Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono sono un avvocato, esercito da diversi anni. Sì. Ritengo, con un po' di forse falsa modestia, di avere un minimo di esperienza. Il problema della giustizia civile e della lentezza può anche essere legato al numero di cause e collegato in parte anche al numero esasperato di professionisti che esercitano, che possono cercare il cosiddetto cavillo per dar corso a qualche azione legale. Ma la lentezza della giustizia è legata essenzialmente ad un numero insufficiente di magistrati e di personale di cancelleria. Basterebbe che il ministro Alfano andasse in giro nelle sezioni distaccate dei tribunali, ma non accompagnato in pompa magna, ma di nascosto, e andare a rendersi conto di come funzionano le sezioni distaccate delle nostre, cioè quello, dei nostri quello tribunali. Quello è il vero problema, dice Maurizio. È uno dei problemi. Uno dei, certo, ma poi voglio dire, non è che oggi noi ci concentriamo sulla questione avvocati, perché Alesina e Giavazzi si sono concentrati in particolare su questo, ma non solo, nel loro editoriale. Però vorrei, avvocato Perfetti, che ne pensa della questione tariffe a forfè, che era quello il punto su cui... Mi permetto di precisare, sì, che qui non si parla di reati, si dice solo, la metta come le pare, ma se si collegano i due fatti, numero e contenzioso, sì, elevato, evidentemente o si veicola o si sottintende o si insinua che all'origine di questo contenzioso elevato ci sia anche... Ma forse, scusi avvocato, ecco, vuol dire questo, che se io vado da un avvocato e dico ho litigato col mio vicino di casa, sì, potrebbe dire, beh guardi, ma insomma cerchi di ricomporre, guardi, la cosa, guardi, in una maniera, oppure potrebbe dire, beh secondo me c'è spazio per fare una causa. Lei sta dicendo cose giustissime, ma solo chi non conosce il nostro lavoro può pensare che non siamo noi i primi a essere i filtri rispetto alla giustizia. E le sto dicendo, non a caso ho citato il codice deontologico, che non reprime certamente reati ma comportamenti connotati da disvalore deontologico, non a caso le sto dicendo che tutti i consigli agli ordini territoriali e il Consiglio Nazionale Forense sono molto attenti a questo aspetto della questione. E per quanto riguarda, giustamente dice l'avvocato di Napoli, che il problema non è quello, perché allora mi dovrebbe spiegare per quale motivo ci sono isole felici nel nostro paese, sì, tipo per esempio Torino. A Torino, con un numero di avvocati certamente elevato, con un bacino industriale certamente sviluppato, con una domanda di giustizia certamente elevata, e tuttavia... Ma lì c'è un presidente che si chiama Mario Barbuto, che è un ottimo presidente di tribunale. Vuol dire che il problema non sono gli avvocati o il contenzioso, il problema è la capacità da parte dei presidenti dei tribunali di trasformarsi in manager che no, ma questo sì, però, rispondono del mancato, però avvocato, io non la vorrei che la prendesse di punta, non è così, cioè analizziamo questo tema, ma l'ho detto più volte che non è questo il tema del problema della giustizia civile. Per quanto riguarda le tariffe, ecco, ricordo che il 14 dicembre del 2006 il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato l'abrogazione del divieto della remunerazione a forfè, che prima esisteva nel nostro codice perché non c'era ancora la legge Bersani del 2006. Quindi oggi, ai sensi dell'articolo 2233 terzo comma del codice civile, alle due uniche condizioni, che il patto sia scritto e che la remunerazione sia proporzionale all'attività svolta, sì, dall'avvocato, l'avvocato è liberissimo di raggiungere col cliente tutti gli accordi che vuole. Professor Alesina, vediamo, le va bene, diciamo, come risposta a questa? E poi mi dica anche, perché voi parlate anche di questo, risponda all'ascoltatore, all'avvocato di Napoli, che ci ha detto il problema sono pochi magistrati, pochi cancellieri, e dico anche, aggiungo io, pochi soldi, e voi dite non è questo il problema, di mettere più soldi nel sistema giustizia. Rapidamente su due cose, cioè, vedremo se molti avvocati si faranno pagare a forfè, non è ora, vedremo come cambierà il sistema, staremo a vedere. Però vorrei ripetere per l'ennesima volta, l'avvocato la prende così di punta, che facciamo l'esempio su un professore di economia: se io vengo pagato per quanto numero di ore insegno, voglio insegnare tante ore, se vengo pagato a quanto bene fanno i miei studenti, cerco di farli far bene minimizzando il numero di ore che insegno, cioè mi sembra una cosa talmente ovvio che non capisco perché bisogna parlare di codici, per un problema semplicemente di come organizzare il proprio lavoro, di incentivi. Sul fatto, come giustamente diceva lei, l'articolo parla di due cose, anzi soprattutto parla direi di più dell'organizzazione dei magistrati, o perlomeno altrettanto di quando parla di avvocati parla di magistrati. E qui i dati dicono che in Italia per la giustizia si spende tanto quanto la media europea, e quindi credo che non sia tanto un problema di soldi ma di organizzazione del lavoro. Citiamo degli studi di tre economisti, Coviello, Ichino e Pertico, che dimostrano come delle riorganizzazioni del lavoro dei magistrati molto semplici possono portare dei grandi benefici di riduzione della durata delle cause. Come a Torino, come a Torino è stato fatto. Questi lavori l'hanno fatto molto dettagliati, che tra l'altro sono stati discussi molto lungamente in molti convegni di magistrati e avvocati. Questi economisti dimostrano come un certo tipo di riorganizzazione del lavoro a parità di costi può portare a dei risparmi di tempo notevolissimi. Quindi non sono così convinto che sia un problema di spendere di più, ma sia un problema di maggiore organizzazione, di maggiore organizzazione delle risorse esistenti. Allora, io qui mi devo fermare perché il tempo è finito, la discussione rimane aperta, il tema non è neanche escluso che ci ritorneremo, che torneremo a trattarlo, perché è un tema davvero interessante, come vedo anche dalle telefonate. Ringrazio intanto il professor Alberto Alesina, che insegna ad Harvard, insegna alla Bocconi, editore la lista del Corriere della Sera, e l'avvocato Ubaldo Perfetti, vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense, per essere stati con noi su 24 Mattino, la pagina Facebook. Continuiamo se volete le discussioni. E che dire, ringrazio anche Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione e Paolo Corleoni in regia. La linea va al nostro amico Oscar Giannino e noi ci ritroviamo domattina alle 7:20.